634. Pastine pel tè. Mistress Wood, un'amabile signora inglese, avendomi offerto un tè con pastine fatte con le sue proprie mani, ebbe la cortesia rara nei cuochi pretenziosi di darmi la ricetta che vi descrivo dopo averla messa alla prova. Farina d'Ungheria o finissima grammi 440, farina di patate grammi 160, zucchero a velo grammi 160, burro grammi 160, due chiare d'uovo, latte tiepido quanto basta. Formate un monticello sulla spianatoia con le due farine e lo zucchero mescolati insieme. Fategli una buca in mezzo, collocateci le chiare e il burro a pezzetti e con la lama di un coltello prima e con le mani dopo, servendovi del latte, intridetelo e lavoratelo mezz'ora circa per ottenere un pastone piuttosto tenero. Tiratelo col mattarello in una sfoglia della grossezza di uno scudo. Tagliatela a dischi rotondi come quello del numero 7. Bucherellateli con le punte di una forchetta e cuoceteli al forno o al forno da campagna in una teglia unta col burro. Con sola mezza dose della ricetta se ne ottengono assai.